Storiacce di Raffaella Calandra. In un caso c'era un soggetto che ci aveva assicurato che avrebbe potuto procurarci dei minori e l'abbiamo incontrato, ci è venuto a prendere con il suo furgone e ci ha portato davanti a un campo rom dove secondo lui potevamo andare lì a prendere dei minori. Prima le conversazioni in rete, gli scambi di foto e di immagini, poi l'incontro di persona ed ecco la proposta. Io posso procurarti dei bambini. Comincia il più delle volte nel web l'azione di un pedofilo. Rischia di finire però fuori dalla realtà virtuale e rischiano di finire accalappiati anche i tanti ragazzini che con sempre più facilità postano propri video in pose ammiccanti. È nelle stanze chiuse di un web profondo, dove le tracce si cancellano, che si ritrova chi decide di scambiarsi materiale pedopornografico, dove i bambini sono usati come merce. E da lì allora parte questa puntata di Storiacce nel più odioso dei reati, in compagnia anche di un agente sotto copertura. Who are you talking to? I'm chatting, Dad. My friend Charlie from California. He's a junior and plays volleyball for his high school. He's smart and really funny. He's encouraging. He's sweet. And he thinks I'm beautiful. Un adolescente chiusa nella sua stanza per ore davanti ad un PC. Una conversazione in chat lunga giorni interi con qualcuno di cui si conosce solo il nickname. Lo scambio di foto e video sempre più intimi. Poi la decisione di incontrarsi e il rischio di finire in una trappola. Quanto è grande il pericolo per i giovanissimi di fare incontri sbagliati a partire da conoscenze fatte in rete? Quanto è aumentato il rischio, insieme col trend di postare propri video, casomai nudi? Di sicuro sono sempre di più quelli che lo fanno. Ragazzini che si filmano senza vestiti e poi pubblicano tutto. Come sempre di più, 300 i denunciati solo l'anno scorso, sono i minori che postano immagini sessuali dei coetanei, per dispetto, per vendetta, per gioco. E tutto finisce nel grande mare dei social network, popolato però anche da squali ben più adulti. Così, se il cyberbullismo, stando all'ultimo rapporto della Polizia Postale, è un'emergenza sempre più preoccupante, resta la pedofilia, il grande mostro da fermare nel mare virtuale, un mostro che naviga nel deep web, laddove si nuota senza lasciare tracce e dove gli incontri sono solo ravvicinati. Ma in queste stanze chiuse si infiltrano anche agenti sotto copertura, come Franco, nome di fantasia di un poliziotto che per catturare i pedofili è stato addestrato a pensare come loro. L'addestramento avviene, diciamo, molto sul campo. C'è prima una fase di addestramento a livello tecnico per cercare di essere più non riconoscibili possibili sul web, non lasciare tracce sul web, e poi si passa a uno studio della semantica di questi soggetti. Cioè delle parole che utilizzano i pedofili. Parole, ma anche espressioni e modi di dire. Non è semplice parlare di bambini e fare determinate cose ai bambini senza una preparazione anche psicologica, altrimenti uno potrebbe rimanere spaventato e schiacciato da questo tipo di attività. Quindi si fa uno studio di come cercare di entrare, come diceva lei, nella testa del pedofilo, e si studia proprio a tavolino conversazioni vecchie per capire cosa diceva, cosa voleva intendere. Queste persone creano comunità aperte ed esclusive solo a pedofili, perché hanno bisogno di condividere questa esigenza, si sentono emarginati perché sanno che sono perseguiti, chiaramente, quindi in qualche modo fanno un club esatto, virtuale, in cui entrano semplicemente i pedofili e voi dovete riuscire ad entrare in questo club, e per entrare dovete avere tutte, diciamo così, le parole d'ordine. Ma io, se le chiedessi un qualche esempio, diciamo, di queste comunicazioni: commentare una foto semplice di bambini in un parco, commentarla con terminologia tipo angioletti, biondini con occhi che ti guardano, invece magari attraverso una frase, per esempio, di parlare: ah, mi piacerebbe andare ai campi nudisti, si può aprire un argomento che si può spingere oltre. E poi queste comunità bisogna essere presentati da qualcuno, quindi prima bisogna stringere un'amicizia, bisogna entrare in confidenza con il soggetto anche a livello personale. Quindi noi dobbiamo prepararci innanzitutto un profilo che sia credibile, perché quando si fanno domande personali bisogna essere pronti a rispondere. Una vita parallela, ma che sia la più realistica possibile. Si chiama Manuale del perfetto pedofilo. È una pubblicazione che passa di mano in mano sul web, in quegli anfratti oscuri, dove si ritrova chi fa merce dell'infanzia. Sanno perfettamente loro che commettono un reato pagato con pene pesanti, giustamente, e allora con questo manuale si girano suggerimenti pratici ad ampio spettro su come evitare di lasciare tracce informatiche quando si maneggiano foto con bambini, e poi ancora su come muoversi nell'anonimato, ma pure su come passare poi all'azione. Le tecniche, ad esempio, per adescare un ragazzino al parco, casomai col suo cane. Le singole circostanze e le situazioni più frequenti sono esaminate, dobbiamo dirlo, con una freddezza spaventosa e con una concretezza che ha fatto di questo manuale la Bibbia, per così dire, per chiunque nel buio coltivi queste perversioni. Ma per fortuna, come ricorda Carlo Solimene, capo della divisione investigativa della Polizia Postale, ora questa Bibbia è letta pure dagli investigatori. Ovviamente nella pedopornografia esiste uno slang che deve essere assolutamente preciso. Perché se lo slang non è preciso, ovviamente non vi è nessun rapporto fra il pedofilo, e in questo caso, nel caso nostro, dell'agente sotto copertura, ma non vi è neanche nessun rapporto tra il pedofilo e la giovane vittima. Cioè vuol dire che c'è un codice condiviso per cui le foto vengono chiamate in un certo modo? Valuti che sul deep web gira un manuale che è il manuale del perfetto pedofilo. Studiare la testa fa capire se sono recidivi o meno, che vita fanno, e permette di tenerli d'occhio. Così anche gli agenti sotto copertura si costruiscono il loro profilo da pedofilo. Si abituano a parlare come loro, in un codice quasi melenso dove i bimbi diventano tutti sempre angioletti, così vengono chiamati nelle chat specializzate. Ma loro invece restano sempre soltanto dei mostri, disposti a mangiarli questi angioletti, dopo aver divorato scatti e video. Una foto in cambio di un'altra, un video per uno diverso, come i bambini fanno con le figurine dei calciatori, allo stesso modo fanno i pedofili, e insieme a loro così fanno pure gli agenti sotto copertura, in questa seconda identità parallela che devono imparare a gestire con distacco, perché davanti a certe situazioni si può restare anche bruciati dentro, come quando ti offrono ad esempio dei bambini veri, in carne ed ossa, quasi fossero il dessert a fine pasto. La difficoltà è soprattutto l'approccio iniziale. Bisogna crearsi un profilo e studiare il profilo dell'altra persona. Se per esempio ha bisogno di una persona che gli faccia da guida, è una persona debole che ha bisogno di una personalità forte, allora il nostro profilo per essere una persona che fa da mentore. Altrimenti ci stanno soggetti che sono al contrario, hanno bisogno di fare da loro da guida. Come diciamo le matricole appena entrate nel club, che hanno bisogno che qualcuno, un veterano, spieghi loro come avviene. Lei l'ha letto questo manuale del pedofilo che gira sul web? Sì, sì, è diventato un punto di riferimento per questi soggetti, perché negli anni si è arricchito, quindi parte da come non essere soggetti a investigazioni, come rimanere più anonimi possibile, fino a come poter approcciare i bambini, ad esempio, in un parco. Se uno si procura un cane e va al parco col cane, potrebbe essere un modo per avvicinare dei minori. Nel momento in cui ci si conquista questa fiducia, in qualche modo venite considerati ammessi a questo club, comincia la circolazione del materiale. Che cosa avviene? Bisogna avere uno scambio, bisogna capire un po' anche i gusti? Sì, esatto. Dalla letteratura anglosassone o statunitense viene paragonata a una piramide. Si ha un escalation dentro questa comunità piramidale, quindi alla base si avrà semplicemente delle conversazioni fino a quando si potrà disporre di materiale di un certo livello, fino a crescere ad avere magari qualcuno che può permettere degli incontri addirittura con minori, oppure che organizza viaggi al di là del mondo per essere più sicuri. Anche in molte inchieste, anche sulla pornografia, si è venuto fuori come sia sempre più facile in qualche modo avvicinare e abbindolare dei ragazzini e convincerli a farsi delle fotografie o dei video. In qualche modo voi vi capita di intercettare anche questo tipo di materiali? Quando si parla di minori esistono vari livelli, come vari gusti purtroppo. Ci sono le sezioni che partono partono dai neonati fino ai minori di adolescenti. Nel web e nelle varie, chiamiamoli, micro sezioni di questo club di pedofili, esatto, ognuno ha una sua specializzazione, la chiamiamo così? Specializzazione oppure orientamento del gusto di questo tipo di materiale illegale. E quindi è naturalmente anche questo tipo di materiale, visto che è facile reperirlo dai social network, questi soggetti ne fanno omaggio alla comunità. È difficile combattere il fenomeno del deep web, del darknet, dove lì l'anonimato è una prerogativa, quindi tecnologicamente già partiamo svantaggiati perché dobbiamo rincorrere dei soggetti che sono completamente anonimi, quindi dobbiamo utilizzare molte tecniche non solo di indagine ma anche dal punto di vista tecnico, e quindi in questo caso ci ha peggiorato molto la tipologia di indagine, il cosiddetto deep web. Quando è che a un certo punto capite che il gioco deve finire, la copertura deve finire e che bisogna passare in qualche modo anche all'azione? Nel senso che, ad esempio, voi avete anche incontrato un pedofilo. Uno dei motivi per cui può finire la copertura è per esempio l'incontro. L'interesse primario di tutta l'indagine è sempre cercare di mettere in salvo le vittime. Quindi se noi abbiamo sentore che ci sia una vittima in pericolo... Pericolo nel senso che possa fare delle immagini? Che possa essere sfruttato per creare queste immagini. Quindi se noi abbiamo sentore che ci sia una vittima potenziale, l'indagine va subito alla conclusione. A proposito invece di questo incontro che lei ha avuto anche con un pedofilo? C'era un soggetto che ci aveva assicurato che avrebbe potuto procurarci dei minori, ci è venuto a prendere con il suo furgone e ci ha portato davanti a un campo rom dove secondo lui potevamo andare lì a prendere dei minori. Naturalmente nel momento che ci siamo incontrati è finita tutta l'indagine e abbiamo proseguito per vedere se aveva già, diciamo, compiuto questo tipo di attività che aveva reclamato sulla chat oppure no. Cioè vuol dire prendere dei bambini, quindi in questo caso si trattava di bambini rom, per fotografarli, firmarli e simili? Filmarli, il rischio è che possa andare oltre, nel senso che comunque praticare la violenza sessuale è quella, diciamo, poi la cosa più grave. C'è un aspetto però che non va mai perso di vista quando si parla di istinti sessuali e di mercimonio dell'infanzia, e questo aspetto è l'ampio giro d'affari che c'è alle spalle. Storiacce. Una chat chiusa dove bisogna essere presentati ed introdotti per entrare. Una fiducia da conquistarsi per superare sospetti e diffidenze. Poi un manuale per muoversi senza lasciare tracce. L'ingresso nel mondo dei pedofili comincia dal web, come abbiamo sentito nella prima parte di Storiacce. Cresce nutrendosi di immagini con bambini, punta ad arrivare all'incontro in carne ed ossa con minori. Lo avete sentito dalle vostre orecchie qualche minuto fa. Io posso procurarti bambini. Un'offerta concreta fatta da un pedofilo vero, spietato, ad un altro, che in realtà, per fortuna, era solo un agente sotto copertura. Un poliziotto della postale che ha smascherato tutto perché, come dicevamo, anche se poi escono dalla realtà virtuale, è da lì che partono gli interessi dei pedofili, dal web, e da lì allora comincia l'azione degli investigatori, che hanno oscurato solo negli ultimi mesi 2000 siti, tanto per cominciare. Ma questo, ribadisce il direttore della divisione investigativa della postale, Carlo Solimene, è un fenomeno internazionale. Dobbiamo pensare che la pedopornografia è un fenomeno odioso, ma che riguarda tutto il pianeta. Il tipico fenomeno che ha dimensioni di tipo internazionale, e anche per la modalità stessa con cui si consuma e che attraverso la rete è evidente come non possa avere confini. Però nell'ambito, diciamo, di quelle che sono state le vostre attività sul territorio italiano, di che ordine di grandezza stiamo parlando? Parliamo di 2000 siti oscurati soltanto nell'ultimo anno nel territorio italiano, registravano contenuti pedopornografici. Centinaia e centinaia di soggetti denunciati, potremmo parlare di soggetti tratti in arresto, soggetti che divulgavano o magari autoproducevano materiale pedopornografico, e in questo caso si tratta di decine e decine di soggetti italiani. Ma mi permetto di voler segnalare che il fenomeno è un fenomeno molto più importante. Basti pensare che le operazioni più importanti vengono coordinate in ambito internazionale attraverso Europol, per esempio, e per le quali ci sono centinaia di arrestati, centinaia di denunciati, centinaia e centinaia di migliaia di file sequestrati, che andranno poi ad alimentare la banca dati internazionale. Ecco direttore, che tipo di affari c'è dietro questa condivisione di materiale pedopornografico? C'è il denaro. Da indagini internazionali ma anche nazionali abbiamo avuto riscontri che vi è d'altra parte scambio di denaro a fronte di scambio di materiale pedopornografico. Era la compravendita di materiale pornografico, pedopornografico? Pedopornografico. Non soltanto la vendita, ma ovviamente questo materiale, sebbene sembra assurdo e odioso dirlo, più è un materiale innovativo, inedito, foto più recenti o foto inedite, come giustamente diceva lei, questo ovviamente ha un maggior valore, addirittura ha un maggior valore se il materiale è autoprodotto. Davanti ad un fenomeno senza confini e in crescita, si capisce allora come il contrasto va fatto sul campo, ma parte innanzitutto da una cultura della prevenzione rispetto ai tanti ragazzini che con sempre più facilità postano propri video nudi o a quelli che pubblicano immagini ammiccanti o sessualmente spinte di coetanei. E infatti il numero dei minori denunciati per questo genere di episodi aumenta. E quello che può essere ancora più allarmante è che su tutto questo materiale che gira sui social network allungano poi le mani i pedofili veri, quelli adulti, e se lo portano negli anfratti del web, dove c'è stata anche una grande discussione di recente sull'efficacia o meno di punire chi mette anche solo un like sotto video con bambini. E ritorniamo allora sempre lì: quanto bisogna preoccuparsi rispetto a ragazzini che, chiusi nelle loro stanze, chattano con sconosciuti o postano video di sconosciuti? Questo è quello che avviene nel web in chiaro, ma è nel deep web, dove le tracce si cancellano e dove gli incontri sono solo ravvicinati, che si consumano invece i principali reati. Ed è lì che si concentrano le indagini, conferma Solimene. Fino a qualche anno fa abbiamo scandagliato la rete soltanto sul web in chiaro. Ci troviamo invece di fronte a un fenomeno assolutamente nuovo: lo spostarsi da parte delle comunità pedofile dal web in chiaro al deep web, quindi al web diciamo nascosto, dove attraverso un programma, un applicativo, è possibile rendersi anonimi. Li chiamiamo programmi di anonimizzazione della navigazione, quindi non hanno più il cosiddetto IP. È come se noi su un'autostrada italiana trovassimo delle autovetture che girano ma sono senza targa, il che ci fa capire che per questi utenti, che credono di essere assolutamente anonimi, per loro ovviamente è molto più facile scambiare, veicolare informazioni, notizie, fotografie o filmati, ovviamente pedopornografici. Questo è un problema che si pone anche per esempio per mezzi di conversazione come WhatsApp, ad esempio, che è diffusissimo, ma allo stesso tempo è uno di quei mezzi di comunicazione che non lascia tracce. È un problema per esempio su questo tipo di social network, si è posto, per dire, in Gran Bretagna anche nella lotta al terrorismo, proprio perché rende più difficili quantomeno le tracce di chi vi accede. Stiamo parlando quindi anche di questo tipo di social network semplici e diffusi. Il deep web è molto più diffuso. Lei sta parlando di un piccolo settore rispetto a un settore che ha carattere mondiale, e purtroppo non girano soltanto notizie e immagini e filmati pedopornografici, ma tutto ciò che è illecito. Abbiamo allestito un gruppo di investigatori che si occupano soltanto di questo fenomeno, le fa capire che è quantomeno allarmante. Questi siti che sono stati oscurati, chi avevano alle spalle? Provengono ovviamente da altre nazioni. Quando il navigatore poi successivamente si andrà a collegare a questi siti, troverà una cosiddetta stop page della polizia postale delle comunicazioni che dice che è impossibile poter accedere a questo sito perché è stato oscurato in quanto aveva al proprio interno contenuti pedopornografici. Chi lucra con questo tipo di traffico? La pedopornografia ha un bacino di utenza rilevante dedito allo scambio, all'autoproduzione, alla produzione di materiale pedopornografico. È il modo più semplice per incontrarsi sul web. È ovvio che vi sono poi siti che apparentemente magari o hanno altri contenuti e poi magari in un certo link ospitano contenuti pedopornografici. Non sempre, insomma, chi si finge adolescente sul web lo è effettivamente. Un messaggio da far arrivare in modo molto chiaro a tutti i ragazzi, un messaggio che anche le scuole dovrebbero contribuire a trasmettere, perché anche così aiuterebbero a frenare la pedofilia. Fenomeno odioso quello della pedofilia, ma che però esiste fin dall'antichità, ma anche nel tempo dei greci esistevano delle regole. La parola allora va alle mitiche storiacce e a Giorgio Geranò, professore di greco all'Università di Trento e autore di libri per Sonzogno sulla mitologia classica. la società greca ovviamente era molto diversa dalla nostra, e capitava che i greci tollerassero cose che per noi sono reati. Era ammesso, per esempio, il rapporto omosessuale tra un uomo più anziano e un ragazzo, che loro chiamavano paiderastia. Ma anche questo rapporto era ammesso solo entro certi limiti e non implicava che gli abusi contro i minori, chiamiamoli così, fossero tollerati. Anzi, usare violenza verso i ragazzi era considerato non solo un delitto, ma anche un sacrilegio, un'offesa agli dèi. Quest'idea si riflette anche nel mito. Per esempio, dell'eroe Laio si diceva che avesse violentato un ragazzo, Crisippo, il quale si sarebbe ucciso per la vergogna. Un delitto che non restò impunito. Laio, infatti, era il padre di Edipo. Gli toccherà essere ucciso da suo figlio, scontando così la colpa del suo stupro. Gli dèi e gli eroi erano creature fuori dalla norma umana, votate a ogni eccesso e quindi anche a ogni delitto. Prendiamo il caso di Teseo. Noi lo conosciamo come il cavaliere senza macchie, senza paura, che uccide il Minotauro nel labirinto, ma su di lui si raccontavano anche storie meno onorevoli che lo dipingevano come uno stupratore di fanciulle. Una leggenda narrava che, già cinquantenne, avesse rapito Elena, la futura donna più bella del mondo, che allora però era solo una bambina di neppure 12 anni. Era un mito molto antico, ma poi, quando Teseo diventò l'eroe nazionale di Atene, gli ateniesi fecero finta di non sapere. Non si parla mai male dei padri della patria. Siamo arrivati in chiusura alla segnalazione che ci arriva questa settimana da Valentina Greco e dal centro di accoglienza Salem per minori stranieri non accompagnati. Da mesi è senza riscaldamento e senza acqua calda. Si tratta di uno dei centri romani colpiti anche dall'inchiesta Mafia Capitale, dove dunque anche la gestione dei servizi base sembra essere diventata ancora più complessa. Se avete anche voi delle segnalazioni da sottoporci, ricordate che questo spazio è per voi. Scrivetemi allora una mail oppure mi trovate sulla pagina Facebook di Storiacce, su Twitter invece @ Raf Calandra. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Ciao a tutti, a presto!